get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora buonasera a tutte. Arriviamo. Eccoci qua, siamo io, Rosina e Annalisa, stasera ciao. In radio. E benvenute alla nostra 176esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, ormai un tormentone. Una trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. In onda, come ben sapete, tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 in poi sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa, appunto. Potete collegarvi al nostro sito per ascoltare la trasmissione collegandovi appunto a www.clrbp.it/laradio.htm e dovete cliccare sull'icona in diretta. Annalisa si stupisce, diventata bravissima. Ormai, sì. Benissimo, vi ricordo che se volete parlare con noi potete telefonare qui in radio allo 0649 1750, oppure ci potete scrivere una mail al nostro indirizzo che è contatti@clrbp.it, oppure, come appunto già sapete immagino, potete mandarci un sms al 338 4146 682. Allora, nella scorsa trasmissione vi abbiamo parlato delle due manifestazioni che si sono tenute il 14 gennaio a Roma sui Pax e a Milano sull'aborto, ve ne riparleremo ancora stasera, però prima mandiamo un po' di musica, sì. Così evitiamo questo problema tecnico, perché sento, sì, che c'è un, sì, uno strano fischio. Un po' di fischio, sì. Ok. Ciao. Ladies tonight, yeah. About the situation I'm pretty sure y'all would be able to relate to, trust me. Today I'm not feeling pretty, see I'm feeling quite ugly, having one of those days when I can't make up my mind. Don't even look at me. See, I don't wanna hear your problem. No. 'Cause I'm having some of my own. I know it's not your fault that I'm feeling down. I just wanna be left alone. In depression, I think the worst of everything. My lower back is aching and my clothes don't fit. Now ain't that a bitch? Got an attitude and I ain't talking to you. Only if the shoe fits, yeah. I don't care what you think about me, no, no, no, no. I don't need you crowding around me, no, I don't need your sympathy, no. Vabbè, avevo scelto per voi premenstrual PMS. PMS syndrome. PMS syndrome di Mary J. Blige. Beh, avrò detto buona. Non lo so, secondo me forse si dice Blige, però non so. No, non credo. Dice Blige. Vabbè, non credo che sia molto grave. Vabbè, andiamo alle cose serie. Allora, come vi abbiamo annunciato, vi faremo un brevissimo bilancio delle manifestazioni del 14 gennaio. E intanto dobbiamo immediatamente dire che sono state tutte e due un grandissimo successo, quindi questo è il segno che qualcosa si muove nella cosiddetta società civile. E a Roma c'è stata questa grande manifestazione, sono scesi in piazza in più di 50.000 a favore del libero amore nel libero Stato, una manifestazione sui PAX, c'erano uomini, donne, lesbiche, gay, trans, coppie più o meno giovani, si sono appunto tutti ritrovati insieme per dichiarare la necessità di riconoscere un altro tipo di cultura che, come dicono loro, sta appunto un passo avanti rispetto alla cosiddetta normalità, o forse in questo caso sarebbe meglio dire rispetto alla cosiddetta naturalità. E sia dalla piazza che dal palco chi è intervenuto ha voluto ribadire le proprie scelte di laicità, ma anche sottolineare che i diritti aggiunti di soggetti terzi, in questo caso ovviamente le persone omosessuali, nulla tolgono alle famiglie naturali e normate, ma anzi rendono dignità alle situazioni già esistenti e in genere all'intero paese. E molti sono stati gli interventi contro la Chiesa, c'erano diversi cartelli, striscioni appunto contro la Chiesa Cattolica. La Digos ha, come al solito, provato a toglierne addirittura qualcuno, ritenuto troppo spinto, peraltro senza riuscirci. E questo, diciamo, questo atteggiamento da parte della piazza indica come appunto le ingerenze vaticane nella vita delle cittadine e dei cittadini si siano fatte davvero intollerabili. Ecco, direi che questa espressione di laicità della piazza sembra proprio essere l'elemento più condivisibile di questa manifestazione, almeno per noi che abbiamo più volte invece espresso la nostra contrarietà ad agevolare queste manovre che intendono portare alla omologazione soggetti che per loro natura sono e devono rimanere distinti proprio per la eversività della loro stessa esistenza. Vogliamo ricordare ancora una volta che cercare di riprodurre o comunque di avvicinarsi al modello familiare istituzionale non soltanto è omologante, e noi crediamo che non si possa ricercare il consenso di un modello sociale che contestualmente si intende abbattere, ma è anche espropriante per le donne, considerato che solitamente è proprio la famiglia o comunque un certo tipo di modello familiare il luogo deputato appunto alla spersonalizzazione e al ritorno alla tutela delle donne che faticosamente invece invece hanno lottato per uscire da questa situazione. Questo per quanto riguarda il Pax di Roma. Invece a Milano la partecipazione è stata decisamente più vasta, c'erano circa 250.000 persone, donne e uomini di tutte le età, che sono appunto scesi in piazza a rivendicare il diritto di autodeterminazione femminile e al contempo anche qui la laicità del corpo dello Stato, ma soprattutto la laicità, diciamo così, del corpo delle persone. E c'è da registrare che probabilmente un corteo così numeroso su questo tema naturalmente non si vedeva davvero dagli anni 70. È stato uno strano corteo che da una parte ha visto la presenza delle femministe storiche e quindi quelle che già 30 anni fa si battevano e scendevano nelle piazze, e dall'altra la presenza delle giovani e delle giovanissime, quindi delle figlie, delle nipoti, che forse sono scese in una piazza per la prima volta, svegliandosi, è il caso di dirlo, da una indifferenza che sembrava aver avvolto il movimento delle donne. E molti gli uomini presenti, abbiamo detto, e questo è probabilmente il dato che segna la differenza fra oggi e quello che invece accadeva molti anni fa, dato che indica probabilmente una trasformazione, una consapevolezza nuova da parte degli uomini di questo paese. È sicuramente un fatto positivo, ma insomma, credo che noi avremmo preferito, posso insomma, dirlo probabilmente non soltanto a titolo personale, ma forse anche parlando a nome del gruppo, questa volta mi assumo questa responsabilità, insomma avremmo preferito una grande manifestazione di sole donne unite da quella che un tempo si definiva la sorellanza, ma che oggi sicuramente è un termine un po' vetusto e un po' vetero. E comunque tant'è, direi che ci possiamo accontentare di questo risveglio, che comunque è significativo, credo per almeno due buone ragioni. La prima è che questa grande mobilitazione non è nata dai palazzi, dalle forze politiche, ma è nata invece dal disagio, dal dispetto e dalla rabbia di donne comuni che hanno risposto all'appello di un'altra donna comune, la giornalista Assunta Sarlo, che grazie ad una email è riuscita a riattivare una rete di solidarietà e di contatto politico fra vari movimenti di donne che sembrava essersi perduta. L'altra buona ragione è che appunto quella rete evidentemente non era affatto perduta, semplicemente le donne hanno continuato a lavorare fra di loro e su se stesse seguendo altri canali e partecipando quindi trasversalmente, auto-organizzandosi e mettendo in gioco saperi ed esperienze che da sempre le distinguono. Ci sembra che queste siano le due buone ragioni per essere soddisfatte di questa mobilitazione, per questo vi invitiamo tutte a scendere in piazza ancora l'11 febbraio. Per quel giorno che ricordiamo è l'anniversario della stesura dei patti latinanensi, ci saranno due manifestazioni, una a Napoli in difesa della 194 e dell'autodeterminazione femminile, e ci sarà anche un'altra manifestazione nazionale a Roma, indetta dall'associazione Facciamo Breccia, per una sessualità libera, consapevole, non asservita alla riproduzione, contro l'ingerenza vaticana nella sfera pubblica, contro i crescenti privilegi economici della Chiesa e per la revisione del concordato. Quindi o l'una o l'altra vi invitiamo a partecipare, noi saremo presenti insieme alle compagne lesbiche di Fuoricampo e alle compagne di Bari, le Desiderande, sì. alla manifestazione saremo tante, tantissime. Invitiamo anche speriamo che i media poi ci facciano giustizia. Speriamo che i media ci facciano giustizia, forse ci giustizieranno. È probabile. È più probabile. Direi che possiamo andare con un po' di musica. Sì, io avevo scelto, pensa, sì. Ho scavato nella buca, esatto, dei ricordi. Esatto, e quindi ho trovato una canzone che sembrava ormai antica. Dal canzoniere femminista che Siamo Stufe, che secondo me ci azzecca un sacco. È bellissimo. Siamo stufe di fare bambini, lavare i piatti, stirare pannolini, avere un uomo che ci fa da padrone e ci proibisce la contraccezione. Noi siamo stufe di far quadrare ogni mese il bilancio familiare, lavare, cucire, pulire, cucinare per chi sostiene che ci mantiene. Noi siamo stufe della pubblicità che deforma la nostra realtà, questa moderna schiavitù, da oggi in poi non l'accettiamo più. Noi siamo stufe di essere sfruttate, la storia della verginità, vogliamo la nostra sessualità. Ci han diviso fra brutte e belle, ma fra di noi siamo tutte sorelle. Fra di noi non c'è distinzione, all'uomo serve la divisione. Noi siamo stupidi a colpire ogni volta col rischio di morire. Il nostro corpo ci appartiene, per tutto questo lottiamo insieme. Ci dicono sempre di sopportare, ma da oggi noi vogliamo lottare per la nostra liberazione. Facciamo con me la rivoluzione. Carina, ma aspettavo un messaggino a questo punto. Adesso arriveranno centinaia di ne abbiamo centinaia avuto uno messaggi. Però mi sembra, no? Di una sì, top fan. È una chiappo. No, non si può dire. Allora, io vi ricordo che siete sempre sintonizzate sul martedì femminista e lesbico autogestito di Radio Onda Rossa, e precisamente nell'ambito della nostra trasmissione è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Noi siamo le CLR, eravamo in due, io e Rosina, si è aggiunta siamo in tre, la terza new entry nel CLR, ci fa estremamente piacere, e quindi per le altre che sono in ascolto, che vogliono aiutarci nel fare iniziative o vogliono venire ad ascoltarci in riunione a dire la loro, noi le accogliamo ben volentieri. Vi ricordo che noi ci riuniamo tutti i mercoledì a via San Francesco di Sales 1B, e chi vuole invece intervenire in diretta può telefonare allo 06 49 17 50, oppure mandarci per le più timide un sms. Vi ricordo il nostro numero di cellulare, che è 338 41 46 682. Oh. Allora, noi continuiamo a parlare della manifestazione. Sì, continuiamo, diciamo che andando un po' in giro su internet, da quando mi sono informatizzata, tu ma sai che brava, che faccio sì. altro che stare in giro, sì. ho dato un'occhiata al sito UAR, che sarebbe praticamente il sito della Unione Atei e Agnostici Razionalisti, sì. e ho tirato fuori alcune informazioni, e quindi vi invito anche voi a visitare il sito, e io ho tirato fuori alcune cosettine anche diciamo per certi versi divertenti, se si vuole, se non fossero tanto tragiche sarebbero divertenti. Sono alcune piccole cose sulla situazione diciamo che c'è stata nel nostro paese dal 1975 ad oggi rispetto appunto all'aborto. Annalisa, vuoi occuparti un po'? Sì, allora fino al 75 l'aborto era in Italia ancora una pratica illegale, e uno degli ultimi paesi europei a considerarlo un reato era appunto l'Italia. Le donne italiane, già svantaggiate da una legislazione punitiva nei confronti della contraccezione, quando incappavano in una gravidanza non voluta, si dovevano rivolgere clandestinamente alle famigerate mammane, che erano delle praticone senza scrupoli che, con mezzi assolutamente non idonei, in cambio dell'autocompenso, risolvevano il problema, diciamo così, talvolta al prezzo della vita della donna stessa. Nel 75 una sentenza della Corte Costituzionale stabiliva finalmente la differenza tra un embrione e un essere umano, e sanciva la prevalenza della salute della madre rispetto alla vita del nascituro, cosa che è stata 30 anni dopo, ancora stiamo invece, forse si è stabilito esattamente il contrario. Il 22 maggio del 78 veniva approvata la storica legge 194, di cui si sente tanto parlare, con la quale si riconosceva il diritto alla donna di interrompere gratuitamente nelle strutture pubbliche la gravidanza indesiderata. In essa venivano stabilite politiche di prevenzione ed attuarsi presso i consultori familiari. Purtroppo era anche ammessa la possibilità di non operare per il medico che avesse sollevato obiezione di coscienza. Contro questa legge vennero avviate 3 raccolte di firme per indire altrettanti referendum, una da parte dei radicali, che ne chiedevano una modifica in senso ancora più ampio, e 2 da parte del cattolico Movimento per la Vita, una per un'abrogazione minimale e una per l'abrogazione invece totale. Quest'ultimo verrà poi dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale. Il 17 e 18 maggio dell'81 si votò, in un clima reso incandescente dal recente attentato a Giovanni Paolo II, e la proposta cattolica venne bocciata a schiacciante maggioranza, pensate, il 68%, quella radicale anche, l'88%. Nel 95 Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Evangelium Vitae, ha ribadito che nessuno può autorizzare l'uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia, arrivando a definire le leggi che autorizzano l'interruzione di una gravidanza del tutto prive di autentica validità giuridica. Una rigida posizione di chiusura, dimentica della piaga degli aborti clandestini e ovviamente refrattaria anche a una politica di prevenzione di tipo contraccettivo. Allora, e qui diciamo la parte prettamente informativa rispetto all'andamento diciamo legale della questione relativa all'aborto. A questo punto però il sito di UAR ci dà una serie di situazioni, di piccoli aneddoti fra virgolette, che si sono verificati in una decina di anni. Quindi ci informano gli amici di UAR che nel dicembre del 1991 il movimento aquilano Armata Bianca, col beneplacito del sindaco e l'avallo dell'arcivescovo, eresse nel cimitero un monumento ai bambini mai nati. Allora sembrò quasi una scena folcloristica, in seguito però, guarda un po', i vertici di questo movimento vennero tutti quanti perseguiti per reati a sfondo sessuale e anche per truffa, tanto insomma, perché loro erano i custodi della morale, infatti si è visto di quale morale. E però proprio questo episodio fu invece il primo segnale di una escalation antiabortista che negli ultimi tempi appunto è diventata impressionante. Quindi poi nel 97, nel 99 si sono avuti altri episodi, ad esempio l'assessore regionale piemontese alla sanità appunto nel 97 autorizzò un'associazione antiabortista di Novara ad organizzare un funerale dei feti ogni fine mese. Questa insomma, è una delle tante. Oppure nel 99 venne una scusate, sotto le pressioni della stampa e della gerarchia cattoliche, il giudice tutelare decise di revocare la decisione precedentemente presa da un tutore di far abortire una tredicenne psicolabile di Pozzallo che era stata violentata dal padre. Alla violenza si somma la violenza, naturalmente. E ancora un ultimo episodio nella notte tra il 28 e il 29 dicembre al pronto soccorso dell'ospedale di San Camillo qui a Roma, due sacerdoti sono entrati nel nosocomio facendosi largo con la forza tra il personale allo scopo di bloccare un intervento urgente per la interruzione della gravidanza di un'altra tredicenne regolarmente ricoverata con l'autorizzazione del giudice tutelare. Per allontanarli sono dovute intervenire le guardie giurate. Ma ce ne sono ancora molti. Nel febbraio del 2000 l'Abbiate di Subiaco dalle colonne dell'Osservatorio Romano chiese di sospendere le interruzioni di gravidanza per tutto il periodo giubilare, evidentemente una sorta di indulgenza. Sì. E ce ne sono ancora moltissime. Anche questa, nell'aprile del 2000 una scuola di Bolzano, una professoressa di religione porta in classe dei feti di plastica in presenza di esponenti di un'organizzazione antiabortista, costringendo le alunne, pensate, a giurare sulla loro castità presente e futura. Questo naturalmente. Tu già nasci a Bolzano, no? Tu già nasci a Bolzano, sei, già, un, po', insomma, sei un po' sfortunato. Non per qualcosa, no, però c'è qualche fa freddo. All'ascolto. No, più che altro fa per il freddo. Fa freddo, allora bisogna bere, evidentemente questo aveva bevuto abbastanza. Ad ogni modo questa è diciamo una situazione. Ma non è che sia meglio al sud, perché a Battipaglia tu mi insegni che hai scoperto che è successo a Battipaglia, sempre più folcloristici. Il sindaco ha inaugurato ufficialmente un monumento alla vita definendo il locale ospedale l'abortificio cittadino. Quindi vedi che. Ale, che meraviglia. Comunque questo per quanto riguarda la situazione in Italia, però non è che all'estero insomma le cose vadano tanto meglio. Ad esempio in Scozia la Chiesa è arrivata a finanziare bambine dodicenni affinché portassero avanti la gravidanza. E questa insomma, è una bella cosa. Negli Stati Uniti i cristiani sono perfino scesi nell'illegalità. I medici abortisti oramai sono vittime di continue intimidazioni. Basta dare un'occhiata al sito Operation Rescue, dove se ne vantano pure, per farsene un'idea. E l'equiparazione dell'aborto ad un assassinio ha spinto diversi facinorosi ad assaltare le cliniche dove viene legalmente praticata l'interruzione di gravidanza. Molti medici sono stati addirittura assassinati o feriti in questo modo. I casi sono talmente numerosi che la NAF, la National Abortion Federation, chiedo scusa per la pronuncia, redige dei bollettini periodici di guerra, diciamo, nei quali appunto contano le vittime. Tutte queste statistiche sono disponibili anche online sul sito della NAF. E ancora nel febbraio del 2003 in Nicaragua una bambina di 9 anni stuprata e rimasta incinta ha potuto essere sottoposta ad interruzione di gravidanza soltanto segretamente. L'arcivescovo di Managua, il cardinale Obando Ibravo, molto bravo, ha prima premuto perché portasse avanti la gravidanza per scomunicare in seguito i medici abortisti chiedendone inoltre l'incarcerazione. Siamo veramente a dei livelli allucinanti. Del resto anche quello che è accaduto negli ultimi tempi qui in Italia insomma non promette niente di buono. Prima la proposta della revisione della 194 che è della commissione per la revisione della 194 che ha chiuso i suoi lavori da pochissimo e diciamo con dei risultati abbastanza positivi, nel senso che la commissione si è resa conto che la legge funziona, forse è una delle pochissime leggi in Italia che funzionano, quindi non ci sarà nessuna modifica. Però stamattina proprio sulla stampa sono uscite le ultime notizie sulle decisioni prese dal ministro della Sanità Vaticana Francesco Storace, che ha appunto forse proprio stamattina, non ho ancora le notizie finali, ma proprio stamattina avrebbe dovuto firmare un decreto di restrizione, diciamo così, per l'acquisto della pillola RU486 in Italia. Quindi le cose non vanno benissimo, c'è continuamente questo attacco all'autodeterminazione, questo attacco alla legge. Per questo motivo sarà importante appunto continuare la nostra presenza nelle piazze. Sì, sì. E ricordiamolo che l'11 febbraio infatti sarà a Napoli. L'11 febbraio a Napoli, ma contemporaneamente sì, anche a Roma, insomma le due manifestazioni sì, non sono antitetiche, forse si sarebbe potuto in qualche modo cercare di riunificarle, vabbè, ma insomma la data è significativa, lo ricordiamo appunto, la data dell'approvazione dei patti lateranensi e quindi le compagne di Napoli, le compagne del movimento femminista hanno ritenuto giusto e significativo celebrare anche in quella città questo evento. Dunque io direi che per non far morire le nostre ascoltatrici troppo a lungo potremmo mandare un altro po' di musica. Mandiamo uno stacchetto mentre arrivano altri messaggini. Io vi ricordo di nuovo il numero di telefono che è il 338 41 46 682. Diteci la vostra, diteci se ci sarete anche voi l'11 febbraio, se avete scelto Roma o Napoli per dire la vostra. Io intanto dedico questa canzone a una giovane ascoltatrice, If I ain't got you, se non avessi te, lei capirà. Che grande pronuncia. E beh, ci sono i pro e i contro, però la canzone è bella. To become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes. Some people want it all, but I don't want nothing at all. three dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and what good would it be? No one to share. Insomma, tutto non sarebbe niente se non avessi te, dice Alicia Keys. Io... aspetta che non ti si sente. Io guardo a te ma penso a qualcun altro, così. Lo sapevo. Tu capisci bene. Lo so, anch'io penso semplicemente. Tu sei la mia chiacchiella dorata. Alla mia canetta penso. Io sto benissimo, io sto bene con me. Sto bene con Bach, dicevo anche a pubblicità. Bene, io volevo ringraziare e mandare un saluto a... volevo ringraziare Tati, che sì, ci ha scritto un bel messaggio e insomma sono contenta delle cose che ci ha scritto. E quindi siamo noi a ringraziare lei, speriamo sì, di poterla sentire. Le ricordiamo che se volesse venire a conoscerci può farlo venendo il mercoledì sera. Tranne questo mercoledì, mi raccomando, il mercoledì sera alla Casa Internazionale Donne al Buon Pastore in via San Francesco di Sales 1B. Sì. Può chiamarci presso il CFS, il Centro Femminista Separatista, allo 06 6864 201. Oppure se insomma non vuole conoscere solo noi ma tante altre donne, il 18 febbraio abbiamo la nostra prossima iniziativa dalle 20:30. Sempre al CFS, in via San Francesco di Sales 1B, zona Trastevere, possiamo dire, cioè accanto proprio alla parte separatista della casa. Esatto, accanto al... non volevo dire il carcere. E poi dopo vi parleremo della nostra iniziativa. Squilla il telefono, lascio stare andare a sta canzone. Vediamo chi è. No, no, ha smesso. Meglio così. Vabbè, ritorniamo a fare le cose serie. Sì. Dunque, facciamo un piccolo pax indietro. Facciamo un piccolo pax indietro e stasera vi vogliamo leggere alcuni estratti di un documento alquanto datato. Giugno 1997 era il contributo di Valeria Santini al convegno Un Mondo da Fare, che appunto si è tenuto a Roma dal 20 al 22 giugno del 97. È straordinario leggere oggi questo documento a distanza di 10 anni, perché è appunto di una attualità veramente, direi, sì, sconvolgente. Sì. E il titolo del documento di Valeria era Unioni Civili, una realtà prioritaria per le lesbiche oppure un obiettivo fittizio? E Valeria appunto si interroga sulla necessità di operare per il raggiungimento appunto delle unioni civili. Io vi leggerò la brevissima premessa, poi Annalisa ci illustrerà il resto del documento. Quindi Valeria esordisce così. Ho ritenuto opportuno affrontare in questo mio contributo al convegno principalmente la questione delle unioni civili per semplici motivi di constatazione della realtà attuale. Come infatti molte di voi sapranno, a oggi in Parlamento sono depositate alcune proposte di legge per le unioni civili che l'Arcigay porta avanti quale suo principale e direi unico cavallo di battaglia. Considerando quanto all'esterno si tenda ad identificare nella voce di Arcigay più o meno quella di tutti gli omosessuali e come delle lesbiche si tende a dimenticarsi, e quanto una parola d'ordine piuttosto semplice e tanto ribadita quale unioni civili possa far presa sia sui media che sul pubblico, e tenendo presente che anche alcune lesbiche appoggiano questa proposta, il rischio che tale rivendicazione finisca per configurarsi come l'unica bandiera conosciuta anche del movimento lesbico non mi pare del tutto impossibile. Questa è la premessa. E il documento continua poi con una serie di analisi, sì. E il paragrafo che Annalisa ci leggerà riguarda le unioni civili e il modello familiare. Sì. Allora, la battaglia istituzionale per il riconoscimento delle unioni civili, portata avanti a spada tratta dal movimento gay, pensate, fin dal 1993 e attualmente sostenuta anche da alcune componenti del movimento lesbico, è considerata da una parte un mezzo per ottenere dei diritti in quanto omosessuali e dall'altra un elemento di rottura che può influire sulla mentalità comune, migliorando il livello di vivibilità nella società per i gay e le lesbiche. Viene da chiedersi, perlomeno a me, che non sono contraria tout court alla politica dei diritti civili, perché mai fra tutti i possibili obiettivi perseguibili si siano scelte proprio le unioni civili? Viene da chiederselo, e la domanda per me rimane senza risposta, data la quantità di contro e la scarsità di pro che questa rivendicazione comporta. Il primo di questi contro, e chiamarlo contro è un eufemismo, è il rafforzamento del modello familiare eteropatriarcale che le unioni civili propongono. Quello stesso modello familiare che la nostra Costituzione considera naturale, guardate l'articolo 29, e al quale quindi la nostra legislazione conferisce una gran serie di agevolazioni, dall'accesso alle adozioni, al diritto di successione, eccetera, eccetera, eccetera. Quello stesso modello che in passato, attaccato da più parti e talvolta messo in crisi, viene oggi chiaramente propugnato e o imposto più o meno da tutte le forze politiche, sinistra inclusa. Che la famiglia sia il luogo da una parte dell'inquadramento e incasellamento dell'individuo individua e dall'altra del possesso dell'uomo sulle donne e sui figli mi pare persino troppo ovvio per ribadirlo, ma forse ce n'è ancora bisogno. Tutte noi proveniamo da una famiglia e ne conosciamo i costi e i danni, soprattutto in termini di spersonalizzazione in funzione dell'appartenenza a questo nucleo sacro e fondamentale. È la famiglia, nella sua rigidità inquadrata, che nega e ostacola l'esistenza delle diversità in nome di un modello universalmente normale, che essa supporta e inculca attraverso l'educazione. È nella famiglia, nella sua perpetuazione, che il ruolo di potere possesso del maschio sulla donna trova la sua forma più compiuta e inattaccabile. Ed è lì che risiedono i maggiori strumenti per ostacolare e delegittimare i tentativi delle donne ad autodeterminarsi, ad essere indipendenti. Non per niente e non a caso, i vincoli che la legge sancisce per l'appartenenza a un nucleo familiare sono tutti di tipo economico o riguardanti il possesso, eredità, tutela in caso di incapacità di intendere e volere, eccetera. È in nome del modello della famiglia che si ventilano ipotesi quali la pensione alle casalinghe, perché tanto cosa può voler di più una donna oltre che stare a curare la casa mentre un uomo provvede a lei? O anche più larvatamente, trasversalmente, ma non per questo con minor pericolo per il genere femminile, che si progettano finanziamenti per le giovani coppie, che non ci si dà poi tanta pena se in certi settori le donne non possono fare la stessa carriera degli uomini, e così via. E sulla base di questo modello familiare e sulla sua indiscussa validità e universalità, che gli uomini ribadiscono continuamente il loro diritto al controllo anche sul corpo delle donne, rimettendo in discussione la legge sull'aborto, ecco, vedete? O intervenendo sulla questione della fecondazione assistita, in nome di un ovvio e quanto mai sano possesso sul nascituro e sulla compagna. La proposta di legge sulle unioni civili, ipotizzando un istituto giuridico, in realtà pressoché coincidente al matrimonio, sostiene e avalla largamente il modello familiare. Dunque, la Santini prosegue nel capitolo dedicato al diritto della coppia e al diritto della singola in questo modo. La proposta delle unioni civili prevede la costituzione di un istituto giuridico che conferisca tutta una serie di diritti e privilegi alla coppia che sottoscriva la propria unione. Questi diritti e privilegi non solo non sono fruibili in alcun modo dalla persona singola, ma anzi vanno proprio a discapito di quest'ultima. Come adesso io singola non posso decidere chi nominare mia erede senza pagarci su un'infinità di tasse di successione, senza rischiare comunque che il testamento venga impugnato dai miei familiari, così non potrò farlo con le unioni civili vigenti. Come io adesso singola vengo penalizzata nelle graduatorie per gli alloggi e per le liste di disoccupazione, così lo sarò ad unioni civili esistenti, con l'unica piccola differenza che mi passeranno avanti anche alcune lesbiche, alcuni gay felicemente accasati e così via. Allora, come si fa a dire che si vogliono portare avanti i diritti delle coppie e quelli delle singole? Che diavolo vuole dire? Vuole dire per caso che intanto ci battiamo per le unioni civili e poi, casomai, un domani, quando ci accorgeremo che però le singole sono un pochettino penalizzate, ci metteremo a contestare questa diseguaglianza? laddove si potrebbe cercare di agire, perché in un qualche modo tutte le persone possano avere pari possibilità di partenza, pari strumenti per concepirsi come soggetti autonomi e titolari dei propri diritti e della propria esistenza, si preferisce invece avallare la contemplazione giuridica della difesa di una parte più debole, che proprio in virtù di tale difesa continuerà ad esistere perché si potrà riconoscere in un modello culturale previsto e legittimato. E questo ulteriore avallamento all'esistenza di una parte debole potrebbe addirittura rafforzarne la legittimità, aprendo la via ad un uso strumentale di questa difesa, per esempio tramite il riconoscimento delle famiglie di fatto non registrate, grazie al quale una ex convivente, magari un po' seccata perché è stata lasciata, potrebbe rivendicare i diritti sulla figlia dell'altra, sul suo patrimonio, eccetera. Le unioni civili, quindi, anche dal punto di vista della libertà di scelta e del diritto di autodeterminarsi, si allineano al modello familistico, riconfermando e rafforzando il diritto dello Stato ad interferire sulla vita privata di ciascuna, di ciascuno, regolamentandola. E il documento è molto lungo, purtroppo sì. non lo possiamo leggere tutto, però no. almeno la chiusa sul ruolo del movimento lesbico, direi che la possiamo dare. Prosegue Valeria dicendo di ritenere che il ruolo del movimento lesbico non sia quello di livellarsi ad un minimo comune denominatore. Su un messaggio quindi che sia del tipo: anche noi lesbiche siamo come voi, vogliamo una famiglia, una situazione stabile e tranquilla, non vogliamo creare disordine, solo vivere una vita normale. Io francamente un po' di disordine lo vorrei creare, e questo è un inciso mio. Prosegue la Santini: essere titolari di diritto, sentirsi e riconoscersi come tali, non significa rivendicare qualsiasi cosa contenga le parole omosessuale o lesbica, ma significa invece esercitare la capacità di analisi e di scelta, individuare obiettivi che realmente ci corrispondano, a partire da ciò che siamo e da quello che vogliamo, dando valore alle nostre relazioni e alle nostre differenze, senza pensare che si può desiderare solo quello che è permesso, perché non esistono limiti che non si possa cercare di superare, perché noi lesbiche stesse siamo la dimostrazione vivente che anche ciò che non è contemplato può esistere in tutta legittimità. Quindi questo, quello che accadeva 10 anni fa, direi che è di una lucidità che possiamo sottoscrivere anche allo stato attuale delle cose. E noi ci troviamo d'accordo con questa posizione, sappiamo che la nostra è una posizione marginale, ma tant'è. Sappiamo pure che molte la conoscono e manco la considerano. Maggior ragione. Ragione noi continuiamo appunto a perorare questa causa. Figurati dopo che passano i Pax. I Pax potremo tutte quante emigrare in altri luoghi. Esatto. Dunque, Annalisa, siamo quasi addirittura di arrivo. Sì. Potremmo, credo, mandare la nostra sigla finale. Però staremo ancora con voi, e voi spero che starete ancora con noi. Avremo appunto questo esordio stasera di Livia, io dico il nome Livia, di questa nuovo new entry nel CLR, di cui siamo orgogliosissime e felicissime. Intanto vi mando la sigla di chiusura, non andate via, restate con noi. It's the rhythm of the universe. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.